Buonasera a tutti, siamo dei 174 ACI ragazzi, il nostro DJ, andiamo con la presentazione, il nostro DJ Danilo Aderente, la musicista Valeria Rizzo, ai Maracas, Gaspare Di Bartolo e Riccardo Bosco, a Fiscaretto, Marco Buscemi, all'elicottero Vincenzo D'Amico, a basso Giuseppe Violenza, il nostro gruppo si chiama Isbenda Minchi. Ora dedichiamo la canzone a Lino De André. D'Andrea è uguale. Presentiamo Lino il napoletano. Ma io già avete fatto la pecora. Quanti anni hai, Lino? Ho già 27 anni. E da quant'è che tu frequenti la ci ragazzi? Ma una 30 anni. Ma io, ma perché il re? Il cane sciuno è fesso. Ma io, ha già detto niente. Mi piace questa idea del ci ragazzi? E mo mi piace. A voi vi piace? A me mi piace. Non ti... Come si chiama tua moglie? A me voglio si chiama Alice. E da quanto è che ti teresti lì da Palermo? Una decina d'anni. E perché? Amore, Palermo è Palermo.